That flea market is 44 miles away in a straight line. The realistic setup here and a camera on the Washington in my garage. And when I get on the interstate, qualcuno non ascolta sul 10? Ossia, che? Entra il materiale io perché no, c'è che dire che non puoi conservarlo nel medio? Dire che un presente non segna il medio del cammino, lo coges tu, che te lo la pala. Canale 10. Cavolo, bajare el suelo. En el lo mismo tiene con el radio. La salina cuocuo, male. Sto andando bene così, stringo tutto. Cosa? Ecco, stavo facendo tarato l'antenna perché non mi andava bene. Adesso ce l'ho bassa, ce l'ho. Ah, gaffa, mi ascolti, sto usando il DAC col microfono normale. Certo. Va bene, dai, così lo faccio scaldare un po'. Marino, no, è che mi chiede la Frecuencia, buenas tardes, la 30 y el Charlie Bravo, buenas tardes, buenas tardes. Natalino Cuocuomane, Natalino Cuocuomane. Natalino Cuocuomane. Sì, già. E te balanto. Sì, acca, proprio tiro sul palo. Come di segnale? Non ti ho sentito. Alto, un po' più basso, sono col DAC. Vabbè, devo tirare sul palo. Ok, dai, li metto il grasso adesso nel coso e via. Va bene? Gappa, gappa, va bene. Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Sono io, non so se mi senti, sono col DAC. DAC, microfono normale, mi senti? Ciao Claudio, sì, buonasera, ti sento forte e chiaro. Ah, funziona ancora sta radio. Sono un anno che non l'accendo. Va, va. Si sente, si sente. Gappa, gappa, microfono normale. Boh, dovrebbe dare intorno ai 20 watt, una ventina di watt. Da Palmo, microfono? Sì, sì, il microfono originale, da Palmo. Bene, bene, da bene, bene, da. Oh, yeah. Va benissimo, Cla. Meglio così, dai, già va bene allora. Faccio scaldare un po', poi la spengo di nuovo. La accendiamo fra un anno. Addirittura. Beh, guarda, io sono un anno qua, ho fatto un anno aprile, no, non l'avevo mai accesa. Sopra c'è il Galaxy. Questa era sempre spenta, dici che gli attacco l'antenna e la facciamo andare. Ehi, ogni tanto a fargli sgranchire le valvole e i condensatori. Infatti, perché questa c'è la storia fino alla valvola, capito? Quindi è meglio farla andare. Ma l'avevi vista tu questa scena? Sì, mi avevi tempo fa su WhatsApp, mi avevi mandato le foto, per dare idea. Ui. Poco male, ragazzi. Mamma mia. Poi è bella, tutta illuminata, è bellissima. C'ha quattro strumenti la favola. Qua c'è il rosmetro incorporato, sta segnando 1 e 2 di stazionari, 1 e 1, 1 e mezzo. Poi sta segnando la potenza della l'assorbimento della trasmissione, ogni tanto si blocca il microfono, vabbè, sarà sporco normale. Poi il modulometro, quello che sta modulando al 100%. Sì, veramente riempie veramente l'occhio quella radio, bellissima. Ne ho viste altre da base, molto belle lo stesso, però secondo me a livello estetico, a livello di presenza proprio è il top, dai, per le radio da base. Oh, poi questa nuova è bellissima, è cromata, c'ha le maniglie lucide, sono cromate ma lucide, lucide, capito? Tutti i pomelli più lucidi, bella. È bella, c'è un bel po' di canali, c'è l'SSB, non c'è l'FM però, capito? Perché è americana, questo è un marchio 10, però stai attento, se ne vedi altre controlla, perché c'è il marchio 8, il marchio 9 e il marchio 10, questo è il marchio 10, quello più completo. No, ho fatto una ricerca una volta, ma ad essere sincero non ho trovato nulla, già da qui si capisce che non ce ne sono in giro e chi ce l'ha se la tiene. Ce la tiene perché c'è un capitano a comprarla. Questa è una radio che sul mercato vale ancora 500-600 euro, non è buccia di gioca. A me ha costata quasi 500 dollari, 480 dollari mi ha costato. Ehi, aspetta che c'è un portante. Ehi, sono io, sono. Sto facendo le prove. Adesso va bene. Se va a fare i brovi mi fa vedere sopra. No, ho schiacciato per sbaglio, cra. Non ho fatto mica apposta. Sto scherzando, non ti preoccupare. Se mai tu stai facendo le prove, già va bene. Farà, sto fingendo e via. KK, e come modulazione già va bene, 5 è buona, non è bassa. Sì, vabbè, rispetto a come ti si ascolta di solito, chiaramente c'è una differenza non indifferente. Beh, non fare quel paragone, però rispetto a un microfono normale. Io sto parlando col microfono normale a un palmo dalla bocca, rispetto insomma ad altri baracchini, come la senti, buona? Guarda, non è super amplificata, è normale, gradevole, pulita, si sente benissimo, non è, come si dice, adesso non mi viene il termine, non è una radio bombardona, mi? Se il microfono normale, ma ti l'attacco l'udano più 3, quindi si bombarda. La gente ad attacco l'udano più 3, da. Ehi, tu mi hai chiesto un parere, ti sto dicendo, nelle attuali condizioni praticamente si sente che non è un microfono amplificato, capito? Però va benissimo. Sì. Aspetta, metto il microfono a tavola, se funziona ancora bene, perché funziona va bene. Oh, Claudio! Ecco qua. Hola, dobbiamo andare bene adesso. Vatte. Funziona già. Eia, sì, è diverso dal lato, giustamente. Funziona, no? Va bene come amplificazione. A voglia, mi è sembrato di sentire Franco da Soso che stava chiamando. Non so, Franco. Molto alta la modulazione, va bene? Adesso un figurone. Ah, il sorgio cambia. No, mi spento, no, quello che accendi già funziona sempre. Di lusso. Di lusso? Ehi, ya. Puntella. Chi cuco Puntella, vero? Michigine è al massimo della radio. Il microfono un po' più di metà, già va bene così. Ehi, ya. Bene, Meda, adesso sì che è una sciaguba. Vabbè, col microfono male cosa vuoi fare? Ehi, bel abbinamento, dai. Bel abbinamento. Va bene. Io stavo a non so quei soldi ancora, non lo vendo perché è introvabile. Ce l'abbiamo in tre in Sardegna, non sa se è Sardegna, ce l'abbiamo in tre radiomaturi. Ehi, eccomi. Ehi, Nara. Guarda a vedere, adesso ho messo tutto a posto. Stazionari sono più basse, com'è? Tanto io sono col DAC, non so se è affidabilissimo il segnale, però vedo quello di Gianni, che è uguale al K, quindi tiro 9,20 come sempre. Va bene, va. Sì, già, va uno Smith, vai, un rosmetro. Già me lo ricordo. Bello grande, roba. La roba che piace a me. No, seria. K. Tutti e quattro gli strumenti sono un bel grandi, almeno si vedono, non c'è bisogno di piccini. Ah no, mi ricordava, quella radio mi ricorda molto i vecchi amplificatori hi-fi di una volta. Sì, bravo, sì, cromati così, con i manili, eia. Tutta quella vecchia serie degli vecchi amplificatori, sia il Pioneer Technics, tutta quella roba degli anni 70, con l'alluminio spazzolato, cose belle. Già sono così verdi, dicono in gallura, già sono così verdi. Eia. Cazzo, quando ero ragazzino e passavo davanti ai negozi di Alta Fedeltà, cazzo, mi scendeva la bavetta, cazzo. Soprattutto lì, quando era aperto Cineradio, tutti quei posti lì, ce n'era di bella roba da vedere. Mi consumavo dolci, da Pintus e Scarpa, Lascio da Audiolinea, Cine Radio, Lascio Radio Muzzo, Buegavera, ce n'erano tanti, là. C'era qualcuno anche via l'Italia, se non sbaglio, anche qua al centro, va. Adesso vabbè, la memoria non mi aiuta adesso. Non di cazzate. Quello lì, il mio CV preferito. Ma chi? Chi è che è entrato? Non lo sento io. Caterpillar. Come, scusi? Bulldozer, non variare tu. Che tu li cipilli là dentro. Massimiliano. Ciao a tu, lasciamo a livello Braghetta quel ragazzo che se n'è andato in campagna a abitare. Ciao già. A livello Braghetta. E quello, l'altro là, che mi ha detto non mi sente. Lo sai che devo quello trovare dentro l'armadio, te lo dico io, non ti sento. K, è tardi a attendersi. Allora, com'è la situazione? Entrando più forti oggi, però con la balza valla. Ma dove fa, c'è Massimiliano? No, cazzo, dove fare? Mi lascia prendere la vado. Massimiliano, sto usando il DAC, l'ho acceso un paio d'ore fa. Vabbè, sta dando la potenza sua, è circa una trentina di watt, 25 là, per l'esattezza. E c'è l'MB più 5, come va? Ho già la contesta parlando perché non la sento questa zanzara. Ah, cintura da zitto. Non ti preoccupare. Lascialo va. A voi che andò del buco un drone, che ne tengo nel canale 45, che ve lo chiedo la zanzara, ecco. Sì, claro, uno schifo. Brutta, Massimilia. Ma io ti avevo la palla. Ah, vero? Non si può usare perché? È un anno che lo accendo, che? Si può usare, claro. Usa, però. È inutile che la lasci lì. O la usi o la regali. Regali, sì. non la trovo più pure, non ne sono mai disfatto, le offerte ne ho avuto, no, se mi manca poi a vederla, no, ogni tanto già l'accendo, sempre collegata col trasformatore 110, adesso gli ho attaccato l'antenna, l'ho staccata dal Galaxy, l'ho attaccata qua, Gianni mi ha detto che già va bene, ma già si può usare. Portala qua, portala qua. Non ci sta, è troppo grande. Ah, è vero che avevo un'armadio a Babbo Nezzino. E chi è questo Gianni o Cla? Gianni Lombrefetta. Ah, è vero, è vero. Avanti Lombrefetta. Oh, yeah. Tutto bene, Massi? E diciamo quello che è bene, no, quello che non è bene l'appoggiamo al muro perché non c'è cavalletto. Bene fatto. Appena lavato la cogliupa è arrivato al volo già. Ah, ecco, perché Antonio va a vedere di fava. Massimiliano, con quella spazzola che ti ho regalato io te l'hai lavati. E allora, mi ha già trattato tutto lo vero. Se te l'hai già detto, trattala piano, dal basso verso l'alto. Tu invece vai dall'alto verso il basso. Che sciugate. Cioè, se lo fa entrare qua, no, cazzo, siete dei porcaccioni, maledizione. Scusa, cosa ti devo dire? Se te l'hai già detto, te l'hai già pure impiegato come te trattarla e tu continui, da sopra in basso, no, no, da sotto a salire. Vabbè, allora la uso per dietro, là. Per dietro devi fare tutta una tirata, una scivolata così veloce. Ah, tu, ma le tende a chi cosa mi dicendo, sì? Bombola! Sta ridendo sotto i baffi. A te, tutta una tirata, mi, lo prefetto. Dai, qualche bella risata di quelle sane già ci vuole ogni tanto. Ah sì, che cambio il radio, sì, che sono attaccato al balcone, mi fanno rilassare, ma... E cosa sta? Il radio sta sempre, non dà un segnale, guarda come ti sto arrivando, il radio si entra, cazzo, a svagarsi, a farsi due risate, no, come sto arrivando, e quanto è di segnale, questa sono un anno senza accendere, la vaso con 2 anni. Hai ragione. Se diavolo chi tu che... Ah, sei venuto o ti hanno mandato? Ah, tu vai tutto questa roba dentro l'armadio, buon cazzina, no? Cosa ne fa dentro l'armadio? Ah, adesso la tolgo, adesso la tolgo. No, no, sono troppo vicino alla finestra, c'ho caldo. E questa è in fondo, capito? Adesso mi metto al centro stanza, allora, sì. E va bene, puoi lasciare la testa là dentro e il corpo fuori, la finestra. L'uccello metti fuori dalla finestra, tu. Dai te, un bel fè. Oh, viene da uno. Oh, oh già, ce n'era uno, no, che entrava nel canale 10 qua. Cazzo, parlava col microfono, mi più 5 girato al contrario, perché se lo metteva a frontale innescava, cazzo. Davvero? E a me, lui. Allora, anche con Massimiliano, era. E amico tuo, era. Ma cazzo, mica fa l'inverso. E io, se no innescava, capito? Ehi, se no innescava. Chi è che sta chiamando? Avanti, buonasera, chi è? No, non c'è spazio per nessuno qua, possiamo entrare solo noi. No, se cambiasse il canale, a futtindini, là. Ciao. Non siete a questo, un blefe. Negativo. E anche io non ero nessuno, ma è puto. No, ora c'è sotto, ma fa vedendo in greco, lui c'è. Ehi, gli avevo sentito, sì. KK, era, mamma mia, qua, finalmente un po' di relax. Ci ho buttato a ridere, lasciando io. Mi ha dato... Stamattina avrei detto che ero uscito in veranda passandomi la spazzola da sopra a sotto. La piscina, ripeto. No, ancora no. Venga, andiamo a piena, io muoviti che veniamo di da Gianni, ci facciamo un tuffo. Oh già, ci andiamo. Poi vieni pure a mappa e fuori fantozzi, intanto è bionda. Gianni. Olbia. Ma tu non te la metti alla piscina. A fianco lì dove c'è l'antenna, oh già. E per la stazione la mette. Di quelle gonfiabili dici? Oh, senza quello per il zoo, tanto ti viene nessuno. Di quelle gonfiabili? Allora, anche senza gonfiare. Ma la cinella di me ci manni e ti si muore dentro. Cattiva c'è la cinella ai cinesi, 4 metri ma 2. In piazza Tova le vendevano quelle bacinelle un bel grandi, quelle blu, quelle con le tre manecce, che ci potevi poggiare la tavola per lavare. Ehi, io me ricordo. Ehi, quella lì, se non si fa, siete per la piscina. Mi fa faccio anche il trampolino. Ti puoi buscare anche una tamburlana? Ma io sono qui in terra. Oh già, ti metti il corpo in mezzo all'acqua e la testa la lasci fuori. Il boccaglio di voi. E anche lui il boccaglio. Vieni che è entrato Antonio, vieni. Avanti, bombolì, riprendi. Tu andai a Gurifava? A venire a Gurifava, in occhi. Cazzo, niente non si può sa, non ti abito io. Ma chi vive a Gurifava vero per me? Di Zioda, di Fava, di tutto, non si può sa. Te lo giuro, chi da cazzo è Bruno, se è bonda, poverina. Cioè, volevo che cazzo siamo mangiando per un fiacco, cazzo, non si può sa nel barazzo. Gesù, grazie. E beh, lo fa a pulirla, no? A cui non abbassate pure il vapor. Ma quando cucina già che si cazzo di niente, me. Poi ti mando un metodo per pulire, per pulirti con la carta igienica, tu. Usi da rotola la carta igienica, usi solo un quadratino. E cosa devo fare? Mettere un friare in culo e con le pizzira. Ma hai mandato il suo video, tu. In poche parole, vabbè, è un po' cosa, qua non te lo posso spiegare, là. Comunque, in questo quadratino della carta igienica devi fare un buco, ci infili il dito, pulisci tutto, sono il quadratino, e poi quando togli tutto, ti pulisci il dito con la carta igienica. Cazzo, veramente, qua ti giuro, Massimiliano, no, ci sono giorni che no, io non so cosa cucinano questi, ma... Ne da buttare in. Però alla fin fine non ti rompono le scatole, sono bravi sono. Ma blackout? Cosa c'è? Cosa c'è? La ruzzi è mancata. Cosa? La ruzzi è mancata a Massimiliano. Non penso. Se non c'è di nuovo quel rumore del cacchio. Sì, boh sì. Ma secondo me non di chi si cazzo di lampade strane, mi. Basta individuarla, cazzo, si fa la carabina per la tira, però che non rompe più il cazzo. Tanto non di quelle luci, mi. Tranquilla 100%. Ehi, farò la bicola per bisogno della carabina. C'è comunque per il bicco. E se no quello delle ragazze, quello è anche lo bravo quando lo ragazzo. E allora? Con colpo di mazzetta fai brim, mamma mia, non si sta perdendo il tempo. Ok, dai, io vi lascio un attimino da fare una cosa. Ci sentiamo dopo. Vai, vai, consegnare, saluta la raniere. Ehi, ehi, se no l'aggatto, provo il carro e il carro, baro è tutto, vero, lo bravo? Sì, minimo. Ma è Massi, mi ha cattato la luce davvero? Non so cosa è successo, sono anche caduto la sedia. No, al telefono ero a telefonia, capito? Luisa, cazzo, ci fai preoccupare, boh. Qui, no, tranquillo, i fiori già non me li devi portare ancora. Sì, vabbè, io ve ne ho ai buoi. Cagaranzo, mi raccomando. No, ci sono anche le margherite. No, non mi piacciono i fiori. La rega, ma abbiamo una caccia di birra. Va bene. Fatti la bimba allora, dai. Brava, brava, è positivo, dai, dai. Mi sto aspettando che le signore si cambino. Dobbiamo andare a prendere una cosettina per Gaia. E poi me ne rientrerò a casa. E tu, un bel fè, cosa ci commendi? Qua a Domo, Massimiliano, niente di particolare. No, pensavo che eri in giro, volevo anch'io. Ehi, con lo zainetto, ve la batteria della macchina. E la vado, va in mano, così. No, che c'ho la frusta nera. Oh, bello che fate sulla macchina. È a 21 gradi, è stata a 23, cazzo. E cosa, Cla? Ho un tacco acceso. Mamma mia. Cioè, erano 20 gradi dentro questa stanza, 23 veniva. Perché c'hai roba di roba accesa, spegni la stufa, no? Ehi, tra corretto a proposito. Caldo sta facendo, si calma appena appena, questo venticello, siamo fottiti. Ma scusa, ma c'è idea, ma l'avevo attaccata la presa io dalla stufa a pellette. Quando adesso l'estate, la lascio sempre attaccata. Ma se vuoi, io ce l'ho staccata, no? Cosa l'avevo fatto di lasciare attaccata a fare? E non perde la memoria, no? No, a me non è un baracchino, me. Vabbè, siccome quando l'ho installato ho visto che sono entrati, c'è cioè questo coso illuminato, entrano lì in posta, non fanno. No, non rifanno nulla, Cla. Puoi staccarla tranquillamente dalla presa, non c'è problema. Io questa di su è già, forse sarà già 3 mesi staccata. Adesso mi, sabato, quella di giù, domani. Se fa bel tempo, domenica mattina la tolgo fuori, ma la pulisco bene e non la tolgo da lì. Per sembra che abbiamo finito con le stufe. Ma c'è il ratto lì fuori, poco beja. Io faccio un carrellino. È tutto lì. E vabbè, anch'io posso portarla fuori nella veranda, ma non è un carrellino. Schiacciamo a Maiennaro e la imbraghiamo e la bucubura là. E cosa devo fare dietro? Devo smontare dietro la caldaia? Io non so cosa devi fare tu nella tua. Io la apro, tolgo tutto, pompa di fumi, tutto, la pulisco bene, capito? Sì, vabbè, la mia l'ho già travagliata, 3 mesi. Neanche, vabbè, 4 mesi a lavorare. Vabbè, in genere si fa così, in genere ogni anno, dopo che si fa la stagione, prima di iniziare l'altra, si chiama il tecnico a pulire, chi non la sa fare, chi la sa fare non lo chiama. No, ma tu da sempre che usiamo e travai, io non mi sono buono, usiamo per una che non ha certezza. Intanto è il genero di mio fratello, mia mamma ha fatto l'impianto. Arelaina in comfort e non è buon nome con i produttori. Ah, ho capito. Aspetta che c'era qualcuno che chiamava. Che avanti? Il re di Porto Torres. Cazzo, questo è un parolone. Ciao B2, buonasera, ben ascoltato dopo una varia di tempo. Tu più forte di Marcia Cunetta. Ciao G, buonasera anche a te, dai. In compagnia di Claudio Sparviero e Lubrefetta dalle alture della stazione. Ma lo senti, Lubrefetta? Negativo, è mezzo rumore di fondo. Comunque se mi copia lo saluto. Ciao Genio. E oggi ti saluta Lubrefetta. Ha detto che sta andando alla Rizinga a farsi prestare un camper. E così è uscito assieme sabato. E basso basso l'ho sento anche io. No, manco qua arriva. C'ho propagazione, quello è propagazione, lo copro. Gava gava. Non dava più quanto prima. Già, se non metto l'antenna sul tetto, sopra in alto, sento molto molto meno rispetto a prima, anche se arrivo a tutte le parti, però la ricezione è calata tantissimo. Boh, io lascio un po' di bianco, non so se Eugenio sta ancora parlando, boh. Ma tu lo senti? Ma non senti più? No, Claudio, io non lo sento, magari lo sente sicuramente Massimiliano. Forse ho cambiato anche il radio, lascio un col 140, provo a farlo col 430, ma non lo sento neanche qua. Eugenio! B2, dove sei? Con chi sei? No, non lo sento più, dai. Mi sta prendendo un po' di propagazione, al 40 zinco, ghie. No, e quindi ti sposti al 45 adesso? No, adesso mi sposto proprio dalla radio. Te l'ho detto, devo andare a prendere una cosettina a Gaia, altre mie musica, e poi ritornerò qua a casa. Sempre comparendo. Era il suo compleanno due sabati fa, sono conservato i soldini, Clara si sta comprando la chitarra elettrica, capito? Quell'acustica ce l'ha già, c'ha l'ukulele, c'è la tastiera, è portata per la musica, le biate un bel. Anche io sono portato per la musica, infatti sono diventato giornato. Lo so, però adesso lei sta imparando da sola a suonare, ma tu la devi sentire. È brava, è già brava, figurati, stai imparando a me, va. No, è tu un perfetto, sei ganta. Oh, yeah. Strumenti musicali proprio nuda, a parte attrezzature tecniche, ma proprio strumenti no. Ma Massimiliano, ce l'ha già l'amplificatore? No, se lo deve prendere. Ah, ok. Perché tu c'hai qualcosa? No, ho detto cazzo, cioè con la chitarra elettrica, totalmente elettrica, ci vuole un amplificatore piccolino. Sì, prende sia la chitarra che l'amplificatore, tutti e due assieme dopo abbiamo preso. Ah, da Trem, è giusto? Ehi, Rubefe, da Trem, sì, ce l'avevo anche ieri, gli ho preso le corde per la classica. Cazzo, un ritiro di corde. Io ne ho 4 chitarre c'ho io. Lei ne ha una, e adesso si vuole prendere questa qua. Però la suona già bene, capito? Però anche con la tastiera molto brava. Ma tu Massimiliano, il piffero sai suonare? Sì, di pelle, però da voi devi bussare la pisciare. Vabbè, mi bogio. Io batto lo tamburo, tu sono un piffero, io te lo vado sotto. Ecco della tua bacchetta. Allora, poi canto anche in inglese io, mi lo sapevi. Aspetta che c'è Franco, avanti. Poi voglio mettere le bacchette. c'è una buffa lì, la ciotto, le vado a dare da muro. È la gran cassa a muro, però, ciao fra. A tutti. Chi c'è da reto, a c'è fa il culo, tutto. C'è la gran cassa, ciao fra, buonasera. Mamma mia, come tocca. Il capo palazziano, qui due balle, che mai avuto il QRM in vita mia, io. Tutta la gente lì che c'è mai, che QRM a Santiago 7, 8, 9, tutti che fa vedere non ci comprendono accidenti. Anche prima sopra l'ubalastro lo fa via, il QRM, invece qua sei in basso e tutto il QRM sotto. Ma non lo dire la bugia, non fra, è così, più in basso sei veramente, è così, ma non so più in basso, io gioco ancora più in alto di prima, prima era 286 metri, adesso sono a 386. Vabbè, però le antenne le avevi molto in alto nel palazzo, mentre qua ce l'hai per terra. Qua nel giardino, ma infatti devo fare qualcosa, o la metto, o la tiro più su, oppure mi decido e la metto sopra il poggiolo, sopra in alto, perché c'è un bel QRM, ma vero, un bel. Capo, lì ci vuole un traliccio almeno di 15 metri. Dove? Traliccio? Se si pongo l'antenna nella tra gabbia, bisogna 8 metri in mano, altro che traliccio, Capo, che ho cambolinato, e lasciare in terra ivi. No, è brutta esteticamente, lascia perdere, fra, no, non mi piace. Si vede che il barro è utile, è lontano, ma l'antenna lì è nascosta, va bene, per fare due chiacchiere va bene. Ho dominato l'universo per 40 anni, adesso giocatevi voi. Guardate, io bevo un osso. Adesso per giocare. Avanti, Massimiliano. Va bene così, fra. L'importante è ci sentiamo, poi non me la fate più nulla. Giusto due chiacchiere, già va bene. E posso dire, per la posizione in cui sono, arrivo a tutte le parti. Scusate, io vi lascio un secondo, non posso più riprendere, che devo uscire. Grazie delle due chiacchiere, ci sentiamo alle prossimine, è stato bello, abbracci, baci e forti abbracci, ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao Massimiliano, buona cosa greca. Ciao Massimi, saluti a casa, ci ascoltiamo, vai già. Ciao Massi, e vieni a entrare più spesso, hai capito? Non ti preoccupare, frate, che hanno acciato un paio di fazzolettini di altro più spesso, da ciao. Entra con la barra, la bussa, la bussa. Oh, yeah. Sì. Ecco, venne a sciosciu. Vento, sì, un bel di vento, sì. Vento, non so, qualche, appena, il vento caldo, Capo, qua sta tirando, non ho capito, diavolo, è rivendi, non è caso caldo, se caso rivenda. Il beccio è, fa, il beccio è. Il beccio, non mi intendo di venti. Il beccio, la cazzo sardo ti sta arrivando. Capo. Bene, andare. Giovanni! Eccomi! Oia! Oia tanto, due risate, Massimiliano! Oia! Bene, no, qua c'è, sì, un po' di venticello, ma è ancora gradevole, dai, non disturba. Capo, anche qua è così, ma diciamo che c'ho la porta aperta del terrazzo e mi entra bello pieno. A volte devo abbassare, se no mi si bigia tutti gli altri bambini facendo il visino. Io sono salito in terrazzo poco fa e l'ha girato tutta la roba che avevi sceso, ho fatto la lavatrice stamattina, tirata tutta la roba, tutta croccante. Ha terrazzo il tuo già? No, è condiviso del condominio. Però non hai problemi a salire, a fare? No, assolutamente no. No. Ci stanno la roba, figurati. Buono. Sì, buoni rapporti. Chi è seduto è sempre di goglio con i condomini. Io lo stesso non ho mai avuto problemi. No, qua tutto tranquillo. Meglio così. Oh. Ragazzi, vi devo lasciare che mi stanno chiamando, ci sentiamo dopo magari. Ciao Gianni, ciao Claudio, buon proseguo. Avanti qua. Ciao, fra, io anch'io non mi trattengo molto, devo preparare. cena. Al limite scendiamo più tardi se coincide, vai già. Eia, ciao Franco, dai, buona serata. Ci si sente alle prossime. Eia, ciao ciao. Proprio per quello sto andando qua, perché sono da solo oggi a prepararmi la cena. E delle mandate in ferie. E allora, non sai che vuole di ferie, burro, chi si? Cioè, pagare di burro di buone in ferie. E maniera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adesso sono passato un momento con 4.30 e c'è meno QRM. Ma, è Alfa 1 che fine ha fatto? Chi? Natalino, lo sente su oggi? No, no, Natalino è al corso. Natalino è a studiare, alle 6. Ah, per il brevetto, intendiamo, per il patentino. Gappa, ci sono esami quest'anno. Ah, ecco, a studiare. E via, la canna che ne studia. Vabbè, ma lui deve farlo. È anni che lo doveva fare, poi ha mollato, adesso spero sia la volta buona. Poi se, come dici tu, era anni che ci stava provando, meglio adesso, dai, se no ti ribassi la canna frio. No, quel Natalino l'ha preparato, ne ha problemi, è che ha mollato per problemi di salute, cambio di casa, un sacco di cose, capito? Adesso che è più sereno, li sta dando, gli dà sicuramente. Eia! Oioioioio! Gianni non si è sentito, no? Gianni lo chiaro, sarà dormito. Oia! Sì, ho sentito che ha attaccato il microfono al 3009 originale, devo dire che esce veramente bene, dai, infatti mi sa che me lo prendo anch'io. Sì, qualità prezzo quel microfono, queste scoperte che fa Marcolino Condor sono eccezionali, va molto bene quel microfono. Eia, considerando che la radio è ancora verginella, quindi si sente proprio, si sente la differenza, un bel suono squillante, è una bella modulazione. No, io quando le radio sono belle lo dico, quando mi biasi non ne ho più nella lingua, perché non deve fare contento il corrispondente e la buisce una gaggada, o sì o no, a me se piace io lo dico, quella è una bella modulazione per essere il microfono normale. Oh yeah. Magari Marcolino l'ascolto, magari è paparazzato sul divano e sta facendo due risate. Sicuramente. Boh, claro, io vado a piegarmi la roba che ne ho tirato dal stenditoio, dai, magari ci sentiamo dopo, e se no poi la trovo sparpagliata. Vai tranquillo già, sono il Querixio, vai, metto a fare qualche cosetta anch'io al cucino. Claudio, sei ancora all'ascolto? Thank you. Ciao 3. Quelli tipo computer, quelli compatti neri, sigillati, dovrebbe essere 12,5, comunque l'amperaggio è sufficiente. L'altro ho preso dal frontalino del PC, della base, la torre praticamente, ho messo due bananine per prendere la tensione, evidentemente l'altro, con l'altra alimentazione non ce la faceva, dai. Sì, se, infatti non c'è più innesco adesso. Va bene, già, io sto facendo roba a due mani, in tastiera, stavo non ascoltando perché non c'era un'anima oggi, oggi è proprio il deserto di Tartari. Eia, no, io un po' esco, ho detto va, stacchiamo il Jupix, facciamo girare un po' l'Uranus, così lo facciamo correre un attimino, e quindi ciccia, ho attaccato già al volo. E niente, siccome ne ho un altro di quelli alimentatori sigillati tipo PC, no? Però quello è buono, l'avevo comprato la GBC col voltaggio regolabile, mi sa che ci attacco quello e così ho finito i problemi. A me mi aveva solleticato l'idea di prendere quegli alimentatori, o quantomeno quelli per fisce LED, da eBay c'era 50 A, 12 volte regolabili, ma poi ho detto al diavolo, ce l'ho già, ne ho due, poi non me ne faccio niente di 50 A, capito? Bene, sto strusciando, spiracchiando, cioè non strusciando. Ciao Gianni, buona passeggiata per dopo e ci intendiamo. Ehi, aspetta, prima di andare, un piccolo quesito, se ne hai voglia. Cioè, intanto dovrò cambiare il cavo, però mi voglio un cavo tipo RG58 con quella sezione lì, capito? Con il centrale non rigido, però magari qualcosa di superiore, cosa mi consigli? Eh beh, con lo stesso diametro, l'H155, c'ha in più quel foglio di alluminio oltre la calza e ha la stessa perdita del 213. Cioè il 58 perde di più, quello perde quanto il 213, cioè perde meno. Watt non saprei, la tenuta dei watt. Io l'avevo messo solo una spezzone per il ricevitore, per le bande VU. Ho capito, perché Gianni mi ha parlato doppio dell'H100, è possibile? Sì, l'ho sentito anch'io, ma non so che cosa sia, 650 ohm, vabbè, H100, puoi guardare su internet, dove è il telefono? Non c'è, vedi tu, però il 155 è abbastanza conosciuto, purché sia Belden, marcato Belden e non cinese. E la guaina è di color grigio scuro, non nero. Se stai prendendo il capo, prendi l'H155 che è superiore al 100. Ah ecco, ciao Claudio. No, perché Gianni mi ha parlato di un capo grigio che ha usato lui per la calata, parlava di un H100. Dice che ha la doppia calza rispetto al 58 normale, dai. Ma rispetto al 58 normale è nettamente superiore al 100, ma rispetto al 100 è nettamente superiore al 155. C'è la doppia calza, centrale rigido, ok? È più schermato e va meglio, meno perdita. Ciao, che sto cucinando, ciao Marco. Ciao Claudio, io l'H100 l'avevo sentito solo nominare, però non sapevo. Ah, quindi è un gradino più su del 58, però già il 155 è un gradino più su del 100 e perde, mi pare, in 27 4 decibel ogni 100 metri, 4,5 ogni 100 metri, e quindi è come il 213 in grosso modo. Ehi, bene, allora, buono a sapersi, perché tanto devo comprare il cavo nuovo e quindi per scegliere un cavo superiore e mettere tipo il RG58, quello tipo 1000, allora a questo punto preferisco mettere l'H155, dai. Oddio, poi forse è un po' leggermente meno elastico, meno morbido del 58, appena meno, perché c'è anche il foglio di alluminio, però il centrale è bello con fili multipli, però in abbondanza, calza fatta bene. Va bene, sì, io prenderei quello. Se non vuoi grosso, 213 ha i fili multipli, però è un barasone di capo. La camiglia non ne parliamo, la camiglia è il centrale rigido, è di una rigidità, dicendo rigidezza, troppo rigido. Ok, sì, mi va bene un simil come dimensioni, come diametro. Un simil 58, dai. Adesso vedo qua se c'è qualche offerta, perché vanno di 10, 20, 30 di metraggio. E niente, vediamo se becco qualche offerta e ci sarai. Così la prossima settimana mi sa che compare giù tutto e almeno sistemiamo tutte cose. Sì, stavo cercando l'H100, ma qua non vuole collaborare qua il mezzo elettronico. eBay, cosa c'entra la Hyundai? Vabbè, sì, 155 più noto anche. L'H100 non so perché abbia scelto quello. Comunque ti costerà di più, il 155 e il 213, ovvio. Cavo migliore e spesa maggiore. Ehi, sì, ti ripeto, prenderò sicuramente quello. E ciccia, dai. 5-6 connettori, una matassa di cavo e l'antenna e il microfono, dai, e la buona gira bide luci, il resto. Spinotti buoni, mi, possibilmente battelite, quelli per 58-155. Cosa ti volevo dire già? Oh, questa Venom me l'avete messa in testa, siccome io volevo fare delle prove in un QTH remoto, una mezz'onda Venom per quello che costa, la volevo prendere per usi futuri, di scorta, che ne so io. D'altro è un dirigente, ha fatto le prove, secondo loro rende abbastanza, certo più in alto sei più rende, se sei nella fossa delle Marianne magari prende un po' meno, quello lì. Eia, no vabbè, presumo che mettendo una cosa del genere non dovrei avere problemi qua, dai, quindi non ho, cioè dovrebbe essere tutto ok, come si dice. Eia. Guarda, io già un annetto fa la volevo prendere, magari la mezz'onda, così non, proprio che i radiali sono talmente corti già, 30 centimetri, è una cosa irrisoria, non danno fastidio per niente, gli uccelli non li piegheranno mai perché sono troppo corti, e in più avresti una 5 ottavi, vabbè. Che altro dire? Ah, sai perché non l'avevo presa? Perché costava poco prima e poi quando mi ero deciso quasi di ordinarla, terminate, poi i prezzi sono saliti, è salita di almeno 10 euro, se no costava tipo 38-39 euro un anno fa, poi adesso è rincarato tutto e quindi fatti l'ugonto. Sì, sì, oh, yeah. E niente, adesso mi faccio un giro di conti, antenna, cavo, stavo dicendo BNC, cazzo, vabbè, adesso mi sfugge, IPL, ecco, antenna, cavo, PL, e il microfono, così lo metto su questa radio, così almeno la facciamo spingere appena di più. Eia, mi chiedevo quanto in effetti guadagneresti almeno sostituendo il quarto d'onda, cioè se ce l'avessi già qua, prova là, mettila sul tetto e vedi la differenza tra il quarto d'onda e... ma potrebbero essere deludenti le... potrebbe salire 2 decibel di guadagno, mi non credere, chi lo sa, tutto è possibile. Dice che l'incremento non sarebbe così tale da giustificare questa spesa? No, magari la farei lo stesso, però passerei alla 5 ottavi, cioè a questo punto, come dice Pomponi, a un certo punto direi direttamente ai 5 ottavi, sarà mezzo metro, metro più in alto, più alta voglio dire, si spera almeno. E radialini, vabbè, lunghezze risoria, quindi non sono piegabili dalle cornacchie quelli. Boh, non lo so, vedi tu, dai. Tanto vedo che le differenze di prezzo sono così poche. Poi se la vuoi comunque proprio senza radiali, perché a te piace senza, un stilo bello dritto, perfetto, però quindi la mezz'onda, la 5 ottavi senza radiali io non la prenderei, perché praticamente 5 ottavi senza radiali, per quanto siano esigui quelli da 30, l'avrei sempre scelta con radiali. Ho capito, sì, no, ma io parlo di 5 ottavi, cioè metto quella e ci ce l'hai. Adesso, ma sicuramente ci sarà un incremento, presumo, non sarà questa cosa scioccante, però presumo che ci sia un incremento tra la qualità del cavo e l'antenna, le dimensioni dell'antenna, sicuramente un piccolo step in più sono sicuro di doverlo fare. Ma io mi ricordo solo questo fatto, quando io piazzai la Ringo, che comunque risuonava bene o male, risuonava in 27, no, non bene o male, già risuonava. Palo di 6 metri, stesso cavo, e cosa di Porto Torres, se non mi copiava, ero nel QRM, sempre con 4 watt, come si chiama, quello che non entra più, sopra Balai, porca miseria, Sandro Tigre, non mi copiava, con 4 watt, mentre la 5 ottavi, poi non eccelsa, una 5 ottavi a livello di Venom, e mi copiava. Cioè, sono passato dal non essere copiato all'essere copiato, non solo però, La Ringo aveva il palo da 6 metri, invece con questa 5 ottavi ho messo un palo che alla fine utile è 3 metri e mezzo, 3,70, 3 e mezzo. Cioè, ho abbassato pure il palo e mi ha copiato meglio. Ecco perché dicevo, vedi 5 ottavi, vedi tu, vedi tu. Comunque la Venom è l'unica che ha dei mini radiali, mini, proprio mini, non so cosa ci siano a fare, però meglio averli che non averli. Ehi, Marco, va bene, dai, io mi preparo e vado a prendermi una boccata d'aria, sono goduta la serata in casa. Ui, mamma mia, bene bene, dai, appena faccio l'acquisto già ti tengo, cioè ti terrò informato, dai. Adesso vediamo questa cosa del microfono, magari prima di comprarlo gli mando una mail e gli dico più o meno su che radio dovrei installarlo, così mi fanno la piedinatura giusta. Sì, va bene. Con questo è Venom alias Silver Road, gli inglesi si fanno tante sviolinate, dice che lo usano da decenni, che è sempre andata bene per loro, vabbè, noi eravamo le Mantova, ma per loro andavano più che bene quelle, contenti loro. Ok, già, buona passeggiata, fai prendi una boccata d'aria anche per me, perché anch'io sono tappato tutto il giorno a casa e non voglio uscire, e sto facendo roba qua al computer. Ciao, buona serata, ciao. Ciao anche a Claudio se è ancora all'ascolto, ciao. Ehi, dai, ci risentiamo, Marco, dai, alla prossima, buona serata. Non la sta